La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto. Fiabe, favole, racconti, leggende. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. www.paroledistorie.net. Adelasia, il demone e la vecchia Jana delle querce. Una fiaba scritta e messa in voce da Gaetano Marino. C'era un tempo in cui l'isola di Hyknos, prima dell'arrivo dei conquistadores, era popolata da migliaia e migliaia di Janas, le piccole fate, figlie del mistero e della notte, possedevano qualcosa di divino e qualcosa di umano, proprio come le semidee. Il confine tra il divino e il demone, si sa, è molto fragile. Da sempre gli inferi hanno dominato l'arcano segreto del lungo viaggio tra la vita e la morte. Ed è proprio da questo mistero che sono nate tantissime leggende e fiabe, come quelle di certe zone dell'isola di Hyknos, dove esistono da sempre grotte immense che comunicano con gli inferi di sottoterra. Una di queste grotte si trovava vicina ad una fonte immersa in un fitto bosco, dove un cuculo aveva costruito il suo nido. Ebbene, si sapeva che quel cuculo, con il suo canto, riusciva ad indovinare quanti anni ci sarebbero voluti per maritarsi. In un villaggio posto ai confini del bosco c'era una ragazza assai bella, di nome Adelasia. Era davvero bella, dal viso splendente, eppure non riusciva a trovare marito. Gli anni passavano, finché anche lei si recò nel bosco in cerca della grotta del cuculo indovino. Dopo aver camminato un bel po', la bella Adelasia trovò la grotta del cuculo. Entrò e con il cuore che le batteva forte forte pronunciò le parole di rito. Cucù bellu e cucù evradi naramiddu dui cantannu suciolinti vommigo iai. Cuculo bello e cuculo di fratello, dimmelo tu, quanti anni ci vogliono per sposarmi? Ma il cuculo, ahimè, la guardò indifferente e rimase muto. Quel silenzio riempì di tristezza Adelasia, tanto che ella cadde in ginocchio e pianse che pareva una fontana impazzita. Tanto si lamentava la triste Adelasia che dopo un po' venne fuori dalla grotta un piccolo essere pelosissimo, non più alto di un ginocchio d'uomo. Aveva zampe e zoccoli di caprone, il corpo d'uomo e le orecchie erano a punta che facevano cornice con due piccole corna sulla fronte. Infine portava nel di dietro una coda riccioluta che terminava con un ciuffetto cresposo. Era un demone e pareva molto, molto arrabbiato. «Ehi tu, ragazzetta, riesci a stare zitta? Con i tuoi pianti stridoli mi stai infastidendo il sonno. Ho mangiato trippa di orchi affumicato oggi e non riesco proprio a digerirli. Ma quando finalmente stavo per prendere sonno, le mie orecchie sono state strapazzate dal tuo tremendo frignare. Ah, si può sapere almeno perché piangi? La fanciulla disse al demone che era venuta a interrogare il cuculo per sapere se ella avesse trovato prima o poi un marito. Il cuculo, indovino, però, era rimasto muto e per questo piangeva di disperazione. Il demone allora disse: «Beh, mi pare chiaro, no? Tu non troverai marito!» A queste parole Adelasia scoppiò a strillare con un pianto ancora più disperato. «Calma, calma, ragazzetta! Non gridare così! C'è sempre una soluzione! E forse io ti posso aiutare? D'altronde, sono un demone, no? O no?» «Dimmi allora tu, demone caro, ti prego e ti scongiuro, come potrai aiutarmi?» «Ti chiami Adelasia, è vero?» «Sì.» «Bene, Adelasia, porta pazienza e ancora pazienza devi portare. Se seguirai i miei consigli, il tuo fidanzato arriverà. Presto, presto, presto, stai tranquilla. Dunque, prima di ogni cosa, dovrai andare nei campi a seminare grano saraceno. Poi lo farai crescere bene, lo falcerai, lo raccoglierai, lo pulirai, lo macinerai, lo impasterai e domani, a mezzogiorno, mi dovrai portare il pane fatto caldo caldo con farina di saraceno.» Adelasia rimase a pensare per un po', fece un paio di calcoli e poi disse: «Domani, a mezzogiorno, ma come? Non posso fare tutto questo in un giorno. Il lavoro che tu mi chiedi ha bisogno di tempo, molto tempo. Ci vogliono tanti giorni, settimane e mesi. Bisogna seminare i chicchi di saraceno e questo non è tempo di semina. Poi si deve aspettare il tempo che maturino le spighe, il tempo per falciarlo, il tempo di raccoglierlo, pulirlo, macinarlo, impastare la farina, il tempo perché lieviti e poi si può infornare. E tu mi chiedi di portarti già domani il pane di saraceno caldo? Ma come posso farlo se ci vuole tutto il suo tempo?» «Tempo? Non devi preoccuparti del tempo, perché io so come levare il tempo al tempo, e soprattutto quando uno ha tempo non deve mai aspettare altro tempo, specie se si sta per diventare una leggenda destinata al popolo come te, Adelasia. Ma per il momento lasciamo stare, su via. Lo so, è difficile da comprendere, ma devo fidarmi comunque, anche se sono un demone, ecco. Ma ora vai a dormire e domani portami una bella pagnotta di pane saraceno, caldo!» Adelasia non riuscì proprio a capire quel che volesse intendere il demone, ma accettò comunque il patto. Dopotutto, non aveva altra scelta. Il giorno dopo, come promesso, la fanciulla ritornò con il pane saraceno, caldo e fragrante. Non so come avesse fatto, ma ci riuscì, e non chiedetevi il perché, dato che questa che racconto è una leggenda, e le leggende si sa che sono stranamente fantastiche e piene di verità strane, o no? Insomma, Adelasia svolse il suo compito in tempo e, come per incanto di misteriosa magia, portò il pane di grano saraceno caldo caldo al demone. il demone. Dunque, afferrò il pane e lo mangiò tutto in un boccone, ma tanto ne ingurgitò che gli venne un terribile mal di pancia. Ora, bisogna sapere che per i demoni il pane di grano saraceno fatto dagli umani è fortemente tossico e a volte pure velenosissimo. Ma i demoni sono comunque golosissimi di pane di grano saraceno. E un demone, si sa, può resistere a tutto, tranne che alle tentazioni. Ah, per tutti i babbaioni cornuti! Aiutami, Adelasia! Ah, ho male terribile alla pancia! Lo so che noi demoni non si deve mangiare il vostro pane saraceno, lo so, ma era così buono e croccante! Gridò disperato il demone. Adelasia non sapeva proprio come fare. Mi dispiace tanto, signor demone. Tu non hai colpa, Adelasia. Sono io che ho voluto essere in gorda. Ascoltami, ragazza. Se mi farai passare il mal di pancia, te lo troverò io un marito, te lo prometto. Ma se non ci riuscirai, sarai mia schiava per sempre. Ti porterò con me, laggiù, negli inferi. E puoi star certa che non sarà una bella esperienza. Tornata a casa, Adelasia chiese aiuto alla madre e alle vecchie vicine di casa, ma nessuno sapeva darle consiglio. Più disperata che mai, Adelasia si ricordò della Jana delle Querce, un'anziana maga indovina che viveva nel bosco. La ragazza si mise in cammino alla sua ricerca, finché la trovò in una vecchia capanna posta sotto una grande quercia millenaria. Dentro ogni cosa sapeva di erbe secche, aromatiche, spezie, muschio e bacche. Al centro stava la vecchia Jana delle Querce. Aveva i suoi piccoli occhi appannati dal tempo, eppure erano ancora dolci come quelli di una bimbetta. La maga rimestava con una pala di ginepro una pozione dal profumo invitante che ribolliva dentro un calderone. Ogni tanto aggiungeva qualche erba e rimescolava borbottando tra le labbra formule sconosciute. Bla bla bla bla bla bla bla. Quando la vecchia Jana della Quercia sentì la presenza di Adelasia, continuando a rimestare nel calderone, disse: Lo so chi tu sei, Adelasia, anche se i miei occhi sono spenti. So perché sei venuta a trovarmi. Adelasia si gettò ai piedi della vecchia Jana. Dolce Jana, ti prego, aiutami. Lo farò, Adelasia. Tu sei una brava fanciulla. Stavo preparando proprio per te questa pozione. La Jana versò in un'ampolla d'ambra la mistura magica. Ditemi quel che devo fare, gentile Jana. Verserai in un pentolino di rame il contenuto di questa ampolla. Aggiungerai foglie di oleandro, eucalipto e acacia, bacche di mirto, qualche corbezzolo, un pezzetto di lardo di maiale, molto prezzemolo, coda e zampe di topo campagnolo. Se fosse ratto stagionato sarebbe ancora più efficace. Poi lo riscalderai a fuoco lento. Quando sarà tutto ben sciolto, lo porterai ancora caldo al demone e glielo farai bere. A lui piacerà. Tanto, stai sicura. Adelasia ringraziò la Jana delle Querce e si precipitò verso casa. Durante il cammino raccolse quanto la Jana le aveva ordinato. Giunta nella sua dimora, si ricordò del ratto morto in cantina. Andò a prenderlo, gli tolse la coda e le zampe, poi mise ogni ingrediente dentro un pentolino di rame, lo adagiò sul fuoco basso e attese. Fatta la zuppa, Adelasia tornò alla grotta, dove il demone la stava aspettando, ancora in preda ai dolori allo stomaco e domandò disperato: «Che mi hai portato, ragazza?» «Una zuppa segreta preparata da me. Prendila, vedrai che ti farà bene». Il demone prese il pentolino in mano e guardò diffidente Adelasia. «Ragazzo, non ci avrai messo anche del grano saraceno?» «No, no, no, niente grano saraceno. Bevila e vedrai». Il demone annusò la zuppa e fece un piccolo sorriso. «Che buon profumo! Deve essere buona!» Il demone ingurgitò l'intera zuppa. Fece un ruttino, poi un rutto, un altro ancora più grande da far tremare le pareti della grotta, e in un attimo si sentì meglio. Adelasia gli domandò: «Come stai adesso?» «Per tutti i demoni, mi sento bene», rispose il demone. «Son guarito e non ho più nessun male alla pancia. Adelasia, per quel che hai fatto, io dico che tra qualche giorno tu troverai marito. Ecco, tieni, questo è per te». Il demone diede ad Adelasia un sacco vuoto. «Un sacco? Ma è vuoto. A che mi serve?» «Quando uscirai dalla grotta, vai alla sorgente su Gologone e vedrai». Dette queste parole, il demone ordinò alla terra di aprirsi. Subito una crepa profonda si formò nel pavimento, sprigionando un terribile odore acre di zolfo, e attraverso quella crepa il demone se ne tornò sottoterra. Adelasia, con il sacco in mano, uscì dalla grotta e si recò a Sugologone. Ma la sorgente non dava più acqua da chissà quanto tempo e pareva prosciugata. La povera ragazza si sedette su una piccola roccia, pensando che il demone l'avesse ingannata. Ma d'improvviso si sentì un gorgoglio provenire dal fondo sabbioso della sorgente. Subito dopo, un enorme rutto sgusciò via dalla sua profondità e di colpo iniziarono a venir fuori monete, tantissime monete d'oro. Adelasia si avvicinò, aprì il sacco e lo riempì sino al colmo. Poi si sentì una voce: «Prendi quelle monete d'oro, Adelasia! Sarà il mio dono di nozze!» Seguì un altro forte rutto che fece tremare le rocce intorno alla sorgente. Per Adelasia non fu difficile capire di chi fosse quella voce e tutto il resto. Trascorse qualche tempo e Adelasia venne chiesta in sposa da un pastorello che da tempo era innamorato di lei. Si chiamava Francisco e allevava capre, tantissime capre, ma non aveva mai avuto il coraggio di chiedere la mano ad Adelasia. I due si sposarono, ebbero tanti figli e vissero per sempre felici e contenti e ricchi. Avete ascoltato Parole di Storie, fiabe, favole, racconti, leggende, adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. www.paroledistorie.net